La storia e la memoria di Dino Pesole. Il 13 maggio del 1978 il Parlamento approvava la legge numero 180, da allora divenuta ufficialmente la legge Basaglia, dal nome del suo tenace promotore, lo psichiatra Franco Basaglia, morto il 29 agosto del 1980. Una vera e propria rivoluzione culturale e sociale, oltre che medica, che ha cambiato radicalmente il modo di intendere e affrontare la malattia mentale nel nostro paese. Oggi torniamo a parlarvi della legge Basaglia perché non è forse noto a tutti che a quasi 37 anni dalla chiusura ufficiale dei manicomi nel nostro paese, oltre 900 persone sono a tutt'oggi internate nei 6 ospedali psichiatrici giudiziari ancora aperti in Italia. Un decreto poi convertito in legge nel febbraio del 2012 ne stabiliva la chiusura fissando delle scadenze che sono poi via via però state sempre prorogate. I volti dell'alienazione è il titolo di una mostra a cura di Franco Corleone e Ivan Novelli che raccoglie 40 disegni e 70 studi dell'artista e designer milanese Roberto Sambonet. Mostra che sarà possibile visitare a Ferrara dal 21 gennaio al 2 febbraio nel Salone d'Onore del Palazzo Municipale, dopo essere già stata esposta a Firenze dal 3 al 18 dicembre dello scorso anno, per chiudere a Roma al Museo in Trastevere dal 24 marzo al 3 maggio prossimi. La mostra è promossa dalla Società della Ragione e dall'archivio Roberto Sambonet da Stop OPG, racconta e indaga attraverso i ritratti che l'artista ha realizzato tra il 1951 e il 1952 nel manicomio di Yukeri a 50 km da San Paolo in Brasile, il complesso fenomeno del disagio mentale. Abbiamo in linea Franco Corleone che da anni si batte sul fronte della difesa dei diritti dei carcerati e contro questi residui di un passato che ritenevamo di avere alle spalle. Corleone è stato a lungo deputato e poi sottosegretario alla giustizia dal 1996 al 2001. È tra i fondatori della Società della Ragione e garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana. Buonasera e benvenuto. Buonasera e a tutti le ascoltatrici e agli ascoltatori. Basaglia diceva che la follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere. Fino al 31 maggio del 1978, quando la legge Basaglia entrò in vigore, il sistema assistenziale psichiatrico italiano era caratterizzato da una finalità prevalente, quello della difesa sociale. La cura del malato aveva dunque un carattere decisamente secondario. Il nuovo corso ebbe inizio fin dagli anni 60 attraverso il movimento culturale antipsichiatrico guidato da Franco Basaglia. Prese avvio un percorso di rinnovamento che, passando per la costituzione di una prima comunità terapeutica, si pose l'obiettivo di scardinare l'istituzione psichiatrica, intesa come scienza medica, ma soprattutto come strumento di controllo sociale. La legge 180 del 1978 ne recepì i contenuti, in linea con l'articolo 31 della Costituzione, disponendo prima di tutto l'abolizione della legge psichiatrica del 1904 e il rifiuto della pericolosità sociale quale elemento proprio della malattia mentale. Di conseguenza si dispose l'abolizione degli ospedali psichiatrici e di ogni altra possibile istituzione psichiatrica di ricovero. Alle regioni veniva demandato il compito di istituire i dipartimenti di salute mentale, dove svolgere le funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. E allora, Franco Corleone, apprendiamo invece dal catalogo della mostra che ci sono ancora centinaia di persone chiuse negli ospedali psichiatrici giudiziari. E che cosa è successo? Come mai? Perché è una zona d'ombra questa, alimentata dalla paura. Oggi sappiamo che la paura è un elemento che condiziona la ragione, la cultura, la politica, i rapporti fra le persone. E i criminali, i pazzi criminali, sono ritenute le persone più pericolose che bisogna rinchiudere in un luogo che è insieme carcere e manicomio. Noi non abbiamo più i manicomi, ma abbiamo un luogo che assume in sé queste due caratteristiche di essere assieme carcere e manicomio. È un retaggio che va assolutamente superato. Il presidente Napolitano parlò di orrore degli ospedali psichiatrici giudiziari. La scadenza per la loro chiusura è prevista il 31 marzo, quindi fra pochissimi giorni possiamo dire. Ci auguriamo che non ci siano più ritardi e che vi sia una svolta terapeutica a partire da una condizione che non sia quella detentiva e della contenzione, perché spesso queste persone sono legate ai loro letti e sono in condizioni illustrate da quel reportage della commissione senatoriale di Ignazio Marino. Ora veniamo alla mostra. Roberto Sanbonet trascorre 6 mesi a contatto degli internati, li ritrae a China e a Matita. È un viaggio nelle pieghe della malattia e della sofferenza. Cosa emerge in particolare da questa interessante esposizione? Ma a me pare che la cosa straordinaria è l'intensità emotiva che proviene dalla vista di questi disegni essenziali e pieni però di denuncia di una condizione che è aggravata dallo stato di prigionia, quindi non è la malattia ma è la prigionia che cambia i connotati dei volti e gli atteggiamenti del corpo di queste persone. Va ricordato che in quel manicomio in Brasile vi erano più di 15.000 persone e questa reclusione di massa riguardava anche l'Italia, perché i manicomi cosiddetti civili, non quelli criminali, negli anni prima della legge Basaglia contenevano decine e decine di migliaia di persone, non c'era città che non avesse il manicomio ed erano in un numero superiore a quello dei reclusi nelle carceri italiane. Quindi questa è la seconda caratteristica straordinaria di questi disegni di Sanbonet, è che vengono prima della denuncia di Foucault, di Goffman e della pratica di Basaglia, cioè l'arte ha anticipato le scelte della pratica antipsichiatrica, se così possiamo dire. Ecco, in apertura della nostra trasmissione abbiamo ricordato appunto i tratti salienti della legge Basaglia, che ormai risale a quasi 37 anni fa. Ecco, a distanza di così tanto tempo si può parlare veramente di una rivoluzione nel nostro paese dal punto di vista della psichiatria? Quella è stata una rivoluzione che ha subito molti attacchi e molte proposte di tornare indietro. Io credo invece che occorra andare avanti. La chiusura degli OPG può aiutare anche una rivisitazione delle pratiche che oggi si realizzano ancora nel silenzio di molte strutture private e soprattutto nelle sezioni degli ospedali di diagnosi e cura, dove molte persone confinate per trattamento sanitario obbligatorio subiscono delle pratiche che sono disumane. Ecco, un'ultima domanda. La mostra intende contribuire alla campagna per la chiusura appunto degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevista, lo ricordavamo prima, il 31 marzo del 2015. Ma sarà rispettata questa volta la scadenza? Il presidente Napolitano aveva dichiarato che non avrebbe firmato un decreto di proroga ulteriore. Ecco, ora però c'è un cambio della guardia al sì, Quirinale. Noi ci auguriamo che non ci siano ripensamenti su questi che sono dei lasciti importanti. D'altronde il presidente Napolitano ha dichiarato che non va in pensione ma continuerà la sua attività e credo che come senatore potrà vigilare perché non accada quello che sarebbe non solo una presa in giro della legge, ma anche una assoluta accesso a ritardi burocratici che invece devono essere superati con l'intelligenza e la capacità di intervenire non con l'edilizia della costruzione di nuove strutture, ma un inserimento nei territori, nelle città, nei paesi di queste sventurate persone. Peraltro lo ricordavamo all'inizio, poco a ridosso della scadenza, appunto, dal 24 marzo al 3 maggio prossimi, la mostra sarà ospitata a Roma, quindi anche un'occasione ulteriore per poterne discutere. Sì, quella è noi ci auguriamo di festeggiare, ecco, in quell'occasione non solo la bellezza dei disegni di San Bonè, ma anche il risultato di una campagna civile molto importante. Intanto mercoledì a Ferrara daremo un contributo di discussione a questa vicenda. Bene, allora tante grazie e buona serata a Franco Corleone. Grazie a voi.